Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Sebbene in Svizzera la prostituzione sia legale, la maggior parte delle prostitute lavora in condizioni di illegalità. E così è nata un'associazione di club a luci rosse in grado di garantire alle lavoratrici gli adeguati controlli sanitari, un servizio di videosorveglianza e la protezione da ogni forma di sfruttamento. Potremmo chiamarlo consumo etico del sesso, oppure usare i termini case per appuntamenti eque e solidali, definizioni corrette a patto di mettere da parte ogni ammiccamento e ogni ironia. Nel Canton Ticino stanno sperimentando una gestione del fenomeno della prostituzione che tuteli in qualche misura le ragazze e ponga un argine al racket malavitoso, che in Svizzera negli ultimi anni ha assunto livelli davvero preoccupanti. Il concetto è quello della riduzione del danno caro alle politiche antiproibizioniste e si sostanzia in quanto segue. È nata un'associazione, la CASI, Club Associati Svizzera Italiana, formata da gestori di club a luci rosse. Il sodalizio si è dotato di un codice etico riassumibile in alcuni punti essenziali. Le ragazze in regola hanno diritto a un prezzo calmierato per la camera che occupano e hanno diritto a controlli sanitari. Viene tutelata attraverso sistemi di videosorveglianza e di security la tranquillità sia delle ragazze che dei loro clienti, in modo da allontanare sfruttatori. I gestori si impegnano a denunciare alla polizia qualunque forma di sfruttamento e tratta di esseri umani. Quelle che possono apparire bizzarrie da rubrica strano ma vero della settimana enigmistica svelano invece una realtà preoccupante. Il Canton Ticino è la terra d'elezione del sesso a pagamento. Funzionano 38 club, tutti concentrati nella fascia a ridosso del confine, alimentati essenzialmente dalla domanda proveniente dall'Italia, il 90% della clientela. In Svizzera la prostituzione è legale, non così il suo sfruttamento. Ma la polizia stessa calcola che l'80% delle professioniste dell'amore sono clandestine, dunque sottoposte a ogni genere di ricatto. Inutile fare i moralisti per tacitare la coscienza, spiega Michel Venturelli, criminologo e tra i promotori dell'iniziativa, se non riesci a fermare il mercato. L'idea dei bordelli etici e della loro carta dei doveri ha tutelato le ragazze, almeno quelle non clandestine, ha sventato episodi di sfruttamento. 3 settimane fa una 17enne ridotta in schiavitù è stata segnalata alla polizia dalle colleghe regolari e ha permesso di aprire uno squarcio su un fenomeno completamente sommerso. Non è stato facile sdoganare l'immagine di persone qualificati come papponi, ma almeno dal punto di vista mediatico abbiamo fatto capire che la legge va applicata. L'esperienza di CASI è stata seguita inizialmente da 15 club, poi scesi a 4, segno che, come sostiene Venturelli, la legalità è una bella cosa, ma costa, e che la gran parte del pianeta prostituzione in Canton Ticino resta una giungla inesplorata. Ma ora si sta provando a rompere questo tabù. Sergio Savoia, deputato dei Verdi al Parlamento del Canton Ticino, ha presentato una mozione poi sottoscritta da tutti i partiti dell'Assemblea. Chiediamo di portare allo scoperto tutta la parte sommersa del fenomeno, che si è acuito anche in conseguenza delle ordinanze restrittive approvate da molti sindaci italiani e che hanno spinto la clientela verso il Ticino. L'obiettivo è accordare un permesso temporaneo di lavoro a tutte le prostitute. Si tratta di scardinare un'ipocrisia di fondo e strappare queste donne al ricatto dei loro sfruttatori. Per fare ciò occorre però un intervento legislativo del governo di Berna, ed è quello che abbiamo sollecitato. Dalla presentazione della mozione è trascorso ormai un anno e tutto quello che il Ticino ha ottenuto è la promessa di un gruppo di studio sull'argomento. Ma intanto il mercato del sesso, quello che sfugge a ogni controllo, continua a fare affari d'oro. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Claudio Delfrate, In Ticino il sesso equo e solidale, dal Corriere della Sera del 9 dicembre. Invece di insultare gli svizzeri per il voto da loro espresso nel referendum sui minareti, sarebbe opportuno chiedersi che cosa questo voto ha voluto dire, scrive il presidente francese Nicolas Sarkozy sul quotidiano Le Monde. Con un referendum, il popolo svizzero si è pronunciato contro la costruzione di nuovi minareti sul suo territorio. Questa decisione può legittimamente suscitare degli interrogativi. Il referendum impone di rispondere alla domanda con un sì o un no. Si può rispondere con un sì o un no a una domanda così complicata, che tocca questioni tanto profonde? Sono convinto che dando una risposta così netta a un problema che deve poter essere risolto caso per caso, nel rispetto delle convinzioni e delle credenze di ciascuno, non si possono che creare malintesi dolorosi. Ma come non rimanere stupefatti dalla reazione che questa decisione ha suscitato in certi ambiti mediatici e politici del nostro paese? Reazioni eccessive, a volte caricaturali, nei confronti del popolo svizzero, la cui democrazia più antica della nostra ha le sue regole e le sue tradizioni, che sono quelle di una democrazia diretta in cui il popolo ha l'abitudine di prendere la parola e decidere in prima persona. Dietro la violenza di queste prese di posizione si nasconde in realtà una diffidenza viscerale verso tutto ciò che viene dal popolo. Il riferimento al popolo è già, per alcuni, l'inizio del populismo. Ma è proprio diventando sordi alle grida del popolo, indifferenti alle sue difficoltà, ai suoi sentimenti, alle sue aspirazioni, che si nutre il populismo. Questo disprezzo del popolo, perché è una forma di disprezzo, finisce sempre male. Come stupirsi del successo degli estremisti quando non si tiene conto della sofferenza degli elettori? Invece di insultare gli svizzeri perché la loro risposta non ci piace, sarebbe meglio interrogarci su quello che rivela. Perché in Svizzera, paese con una lunga tradizione di apertura, ospitalità, tolleranza, c'è stato un rigetto così forte? E cosa risponderebbe il popolo francese alla stessa domanda? Invece di condannare senza appello il popolo svizzero, cerchiamo di capire cosa ha voluto esprimere e che cosa provano molti popoli europei, compreso quello francese. Niente sarebbe peggio della negazione. Niente sarebbe peggio del non guardare in faccia la realtà dei sentimenti, delle preoccupazioni, delle aspirazioni di tanti europei. Capiamo bene, innanzitutto, che quel che accade non ha nulla a che fare con la libertà di culto o di coscienza. Nessuno, nemmeno la Svizzera, si sogna di rimettere in discussione queste libertà fondamentali. Gli europei sono accoglienti, sono tolleranti, è nella loro natura e nella loro cultura. Ma non vogliono che la loro vita, il loro modo di pensare e le loro relazioni sociali vengano snaturati. E il sentimento di perdere la propria identità può essere causa di profonda sofferenza. La mondializzazione contribuisce a ravvivare questo sentimento. La globalizzazione rende l'identità problematica perché tutto in lei contribuisce a smembrarla, ma nello stesso tempo ne acuisce il bisogno. Perché più il mondo è aperto, più la circolazione delle idee, delle persone, dei capitali, delle merci è intensa, più c'è bisogno di un'ancora, di un punto di riferimento, di sentire che non si è soli al mondo. A questo bisogno di appartenenza si può rispondere con la tribù o con la nazione, frantumando la società in comunità etniche o con l'unità della Repubblica. L'identità nazionale è l'antidoto al tribalismo e al comunitarismo. È per questo che ho sperato in un ampio dibattito sull'identità nazionale. Bisogna parlare tutti insieme di questa sorda minaccia che tante persone, nelle nostre vecchie nazioni europee, sentono pesare sulla loro identità, perché a forza di essere rinnegato, questo sentimento non finisca per generare un terribile rancore. Gli svizzeri, come i francesi, sanno che il cambiamento è necessario. La loro lunga storia ha insegnato loro che per restare se stessi bisogna accettare di cambiare. Come le generazioni che li hanno preceduti, sanno che aprirsi agli altri è un arricchimento. Nessun'altra civiltà europea ha tanto praticato il meticciato delle culture, che è il contrario del comunitarismo. Rispettare chi arriva è anche permettere loro di pregare in luoghi di culto decenti. Non si rispettano le persone quando le si obbliga a pregare in un hangar. Accettando una situazione del genere, non rispettiamo neanche i nostri valori. Ancora una volta, laicità non è il rifiuto della religione, ma il rispetto di tutte le religioni. È un principio di neutralità, non di indifferenza. Quando ero ministro dell'Interno ho creato il Consiglio francese del culto musulmano perché la religione musulmana fosse messa su un piede di uguaglianza delle altre grandi religioni. Rispettare chi si accoglie è sforzarsi di non urtarli, di non scioccarli, di rispettarne i valori, le convinzioni, le leggi, le tradizioni e farle, almeno in parte, proprie. È fare propria l'uguaglianza tra uomo e donna, la laicità, la separazione di potere temporale e spirituale. Io mi rivolgo ai miei compatrioti musulmani per dire loro che farò di tutto perché si sentano cittadini come gli altri, abbiano gli stessi diritti degli altri a vivere la propria fede, a praticare la loro religione con la stessa libertà e dignità degli altri. Combatterò qualsiasi forma di discriminazione. Ma voglio anche dire loro che nel nostro paese, dove la civiltà cristiana ha lasciato una traccia tanto profonda, dove i valori della Repubblica sono parte integrante della nostra identità nazionale, tutto quello che può sembrare una sfida a questa eredità e a questi valori condannerebbe alla sconfitta la creazione così necessaria di un Islam francese che si inserisca senza violenza nel nostro patto sociale e civico. Cristiano, ebreo, musulmano, uomo di fede, qualunque sia la sua fede, credente, qualsiasi siano le sue convinzioni, ognuno deve sapere evitare ogni ostentazione e provocazione e, cosciente della fortuna di vivere in una terra libera, deve praticare il suo culto con l'umile discrezione che testimonia non la debolezza delle sue convinzioni, ma il rispetto fraterno che prova per chi non pensa come lui e con cui vuole vivere. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Nicolas Sarkozy, Minareti, chi aumenta il populismo, da Le Monde del 9 dicembre. Traduzione italiana pubblicata sulla Stampa del 9 dicembre. Letture di Radio 24. Tra le ragioni di chi sostiene l'ingresso della Turchia in Europa c'è l'affermazione che è meglio avere la Turchia dalla nostra parte piuttosto che contro. Ma come può essere dalla nostra parte un paese che continua a perseguitare ebrei e cristiani e dove il rispetto dei diritti umani è ancora un'utopia? Sono alcuni degli interrogativi ai quali cerca di dare risposta un recente saggio del geopolitologo Alexandre Del Valle. Malgrado innegabili progressi realizzati ad Ankara dal novembre 2002, le violazioni dei diritti umani restano eccessive. Dall'ascesa al potere del partito AKP, la situazione nelle prigioni turche non è molto migliorata. La Turchia rimane uno dei paesi più criticati al mondo per le violazioni dei diritti fondamentali, specialmente dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, peraltro senza aver assolto il pagamento delle sanzioni ufficiali. Bisogna precisare che le diverse ammende richieste dalla Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo allo Stato turco non sono mai state efficaci, perché Ankara non le ha mai accettate, preferendo addossare le responsabilità ai funzionari penitenziari subalterni, per lo più insolventi, i quali sono obbligati a obbedire a una vera pratica di Stato. Il numero dei prigionieri politici, fra cui molti curdi, è stimato attualmente in oltre 6.000 persone dalle organizzazioni locali di difesa dei diritti umani. Usnu Ondul, presidente dell'IHD, sottolinea che il programma nazionale turco non è conforme alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Quanto al sistema giudiziario, è difficile considerarlo democratico. Pertanto, il presidente della Corte di Cassazione turca, Eraslan Oskaya, ha espresso precise opinioni sul giudizio imparziale durante un simposio organizzato ad Ankara il 21 maggio 2006. È impossibile parlare di giudizio imparziale e indipendente in Turchia finché saranno in vigore gli articoli 140, 144 e 159 della Costituzione. Così anche il Consiglio della Magistratura, in particolare su alcune disposizioni del Codice, il Presidente della Corte di Cassazione ha sottolineato che il principio di imparzialità della giustizia è sempre retto dalla Costituzione semidemocratica del 1982, molto più coercitiva riguardo a diritti e libertà della Costituzione del 1961. Il primo ministro Erdogan dichiara spesso di non voler sentir parlare di tortura o che è per la tortura zero. La pratica della tortura è sempre presente in Turchia, in apparenza meno praticata nelle parole dell'ex commissario europeo all'allargamento, Günther Verheugen, uomo forte della Turchia, il quale si è accontentato di constatare, nel rapporto che contribuì a redigere, pubblicato il 6 ottobre 2004, che la pratica della tortura non è sistematica in Turchia. In quel periodo, Verheugen perorava l'apertura dei negoziati con Ankara, valutando che la Turchia avesse compiuto sforzi considerevoli, sebbene ancora insufficienti. Per esempio, all'indomani stesso della grande dichiarazione di Erdogan sulla tortura zero, il 17 giugno 2003, il presidente dell'Associazione Turca dei Diritti Umani, incontrato all'Istituto Curdo di Parigi, ha raccontato che una deputata incarcerata, Gunduz Gumbahar, era stata sottoposta a tortura con i mozziconi di sigaretta ed era stata stuprata per una semplice dichiarazione in curdo. I responsabili di organizzazioni in difesa dei diritti umani, come lui, sono il bersaglio privilegiato di intimidazioni e molteplici aggressioni fisiche. Di certo, la nuova regolamentazione in materia di detenzione, che sembra abbia migliorato la protezione dei detenuti, ha fatto sensibilmente arretrare l'uso di alcuni metodi di tortura, tra cui il falaka, colpi sulla pianta dei piedi, e la sospensione per le braccia o i polsi. Come denuncia Amnesty International, gli atti di tortura e i maltrattamenti nella custodia a vista, al posto di polizia come in gendarmeria, restavano la fonte di maggiore preoccupazione. Sono stati segnalati casi di percosse, di applicazioni di scariche elettriche e di minacce di morte. Benché vietati da una circolare del ministro dell'interno, Cemil Çiçek, molti casi di privazione di nutrimento, acqua e sonno, o in cui si costringono i detenuti a stare in piedi in posizioni insopportabili, sono tuttora segnalati da molti rapporti della Commissione europea e di organizzazioni per i diritti umani, in special modo Amnesty International, Reporter senza frontiere e l'Associazione turca per i diritti dell'uomo. Insomma, il ricorso alla tortura è ancora frequente in Turchia. Le vittime favorite sono soprattutto i militanti filo-curdi, gli islamisti radicali e i militanti di sinistra. In genere, le violenze si svolgono nei commissariati di polizia, che hanno l'autorità di condurre l'inchiesta giudiziaria. I metodi più spesso impiegati sono naturalmente quelli che lasciano meno tracce, poiché Ankara assicura i responsabili di Bruxelles di aver messo fine a queste pratiche barbare. Botte, scariche elettriche, vittime appese per braccia e polsi e abusi sessuali sono le più usate. Sempre Amnesty International denuncia che le inchieste aperte dai procuratori in seguito alle querele per atti di tortura e per sevizie erano di rado soddisfacenti. Esse sfociano in genere nella decisione di non proseguire azioni legali. Per di più, le vittime che hanno sporto querela contro la polizia per uso eccessivo della forza durante arresti o manifestazioni sono regolarmente accusate a loro volta di ribellione verso un rappresentante dello Stato con la forza, la violenza o le minacce, o infrazione alla legge sugli assembramenti e le manifestazioni. Il rapporto di Amnesty International 2007 sulla situazione dei diritti dell'uomo in Turchia denuncia le violenze in seno alla famiglia che continuano ad attentare ai diritti fondamentali di centinaia di migliaia di donne. Sono stati segnalati casi di percosse e ferite, di stupro, omicidio o suicidio forzato. Secondo molte testimonianze e rapporti di organizzazioni di difesa dei diritti umani, in Turchia le donne appaiono tra le più frequentemente percosse rispetto agli altri paesi musulmani, per non parlare dei delitti d'onore. Amnesty International constata che i rappresentanti dello Stato non hanno preso le misure che si imponevano per proteggere efficacemente le donne. Le inchieste giudiziarie sulle affermazioni di violenze coniugali sono spesso insufficienti e gli autori presunti di tali atti raramente vengono tradotti in giudizio. Cosciente di questi problemi, l'eurodeputata Emin Bozkurt, socialista, nata nei Paesi Bassi da madre olandese e padre turco, benché favorevole all'ingresso della Turchia nell'UE, rileva, in qualità di relatrice del Parlamento europeo sul ruolo delle donne in Turchia, che il suo paese d'origine non garantisce l'eguaglianza dei sessi, argomento cruciale giustamente al centro dei valori dell'Europa e dell'esperienza comunitaria a cui la Turchia dovrà conformarsi se vuole entrare nell'Unione Europea. Durante un'audizione, Emin Bozkurt ha chiesto che l'Unione Europea ponga in risalto la questione dei diritti delle donne nell'ordine del giorno dei negoziati d'adesione con la Turchia. L'eurodeputata ha voluto condannare in questa occasione il modo in cui la polizia si è accanita sulle donne durante la manifestazione del 6 marzo 2005 a Istanbul, il giorno stesso in cui si celebrava la Giornata Internazionale della Donna in Europa. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Alexandre Del Valle, Perché la Turchia non può entrare in Europa. Guerini Associati Editore, 240 pagine, 22,50 euro.